Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema appassionante, quello del rapporto tra arte e politica. Quando si affronta questo tema si pensa subito alle grandi dittature e agli sforzi che tutti hanno fatto o fanno ancora per controllare l'arte, attraverso l'arte, la cultura, la società. Ma questo rapporto rimane sempre vivo, non ci sono solo le dittature che si occupano di controllare l'arte e la cultura, basti pensare alla politica dei finanziamenti pubblici che certamente influiscono sulla produzione artistica. E allora su questo vi segnalo il libro di un noto saggista e organizzatore di mostre contemporanee che si chiama Demetrio Paparoni. Il libro si intitola Il bello, il buono e il cattivo, come la politica ha condizionato l'arte negli ultimi 100 anni, è pubblicato da Ponte alle Grazie, 420 pagine, 26 euro. Un libro che entra nel pieno del dibattito, non limitandosi a studiare i casi più eclatanti del passato. Si parte da Napoleone, ma poi si parla del comunismo, del fascismo, del nazismo. Il libro poi riconsidera alcuni luoghi comuni su questi esperimenti e giunge ai giorni nostri, quando la dittatura che si esercita non è più, scrive Paparoni, quella del potere politico, ma soprattutto quella del denaro, quella del mercato. Si parte dalla fascinazione degli artisti tedeschi per il nazismo, che solleva una questione di fondo. E si rendevano conto questi artisti di colui che stavano appoggiando, si chiede Paparoni, sapevano delle deportazioni, erano consapevoli di quanto stava accadendo nei campi di concentramento, oppure hanno saputo della loro esistenza solo a guerra finita? Come hanno vissuto quei fatti atroci? Cosa dipingevano e perché sceglievano determinati soggetti? Cosa ne è stato di loro dopo la guerra? Sono stati processati, condannati, assolti? E lo stesso si può chiedere naturalmente per quelli affascinati dal comunismo. Si racconta qui per esempio la spregevole storia di un grande intellettuale, di un grande poeta, Paul Éluard, francese, che nel 1938 si infatua di Stalin e abbandona per questo il movimento surrealista che era legato al pensiero di Trotsky. E scrive Paparoni che nel 1950 un amico di Éluard, un amico praghese che era uno scrittore surrealista e trotskista, venne condannato all'impiccagione per le sue idee politiche, ed Éluard naturalmente si schierò a favore di questa condanna, antepose, scrive Paparoni, i propri principi ideologici al sentimento di amicizia e dichiarò di approvarne la condanna. Il boia uccideva mentre il poeta cantava, commentato lo scrittore ceco Milan Kundera. E poi nel libro troveremo tanti altri episodi di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera a Demetrio Paparoni. Buonasera. Demetrio Paparoni, lei comincia il suo libro sottolineando come la politica condizioni gli artisti dal Novecento a oggi, e comincia con un grande esempio per dimostrare che in fondo non si tratta di un fenomeno nuovo, quello di Napoleone. Ecco, qual è la novità nel Novecento rispetto ai tempi di Napoleone su questo rapporto? Ma guardi, il Novecento intanto trova in Parigi il suo centro propulsore per la cultura nuova, ma se non ci fosse stato Napoleone, senza dubbio Parigi non sarebbe stata la capitale mondiale dell'arte. È chiaro che comunque lo scontro tra i due grandi sistemi ideologici gioca un ruolo molto forte in Europa, e comunque gli artisti si confrontano con quel sistema lì e con la nascita della psicanalisi. È anche vero che si affrancano dalla committenza, ma è anche vero che lo scontro tra i due grandi sistemi ideologici porterà alle grandi dittature, e quindi con le grandi dittature automaticamente gli artisti si trovano a vedersi imporre sia i contenuti sia i linguaggi. Ecco, e queste dittature, lei nota, hanno una matrice comune dal punto di vista artistico, che è il neoclassicismo. È stata la madre della pittura totalitaria, il neoclassicismo. Ma sicuramente sì, nonostante devo dire che Napoleone avesse lasciato una grande libertà espressiva agli artisti, però è un'arte narrativa, è un'arte che riesce a parlare agli ignoranti, è un'arte che si presta a glorificare il sovrano. Guardi, non dimentichiamo che Napoleone fece realizzare a Carrara 12.000 piccoli busti che lo raffiguravano, da distribuire nei vari uffici dell'impero, cioè Napoleone ha inventato la propaganda. Poi però ci sono, il rapporto con la politica cambia, e mi ha colpito molto il riferimento che lei fa a un presidente americano, Theodore Roosevelt, il quale fu, scrive, il primo a pensare che gli Stati Uniti dovessero esportare nel mondo non solo le proprie merci ma anche la propria cultura. Fu un grande... Ma sa, Roosevelt fu il primo a capire che gli Stati Uniti avrebbero avuto una supremazia politica sul mondo solo dopo aver assunto una supremazia culturale. Quindi quando nel 1913 si organizza l'Armory Show a New York, badi, l'Armory Show, che è una fiera dell'arte, una fiera mercato per intenderci, fu organizzata dagli americani per dimostrare la superiorità dell'arte americana su quella europea. Invece accadde esattamente l'opposto. Accadde che la supremazia dell'arte europea era schiacciante. E Roosevelt capì questa cosa e dettò poi praticamente la linea politica che è stata seguita e che ancora oggi si seguono le indicazioni di Roosevelt in tal senso, perché se noi guardiamo la storia americana, come si è la storia, diciamo, in rapporto alla gestione della cultura, hanno seguito tutta la classe politica che ha seguito, sia a destra che a sinistra, ha seguito le indicazioni di Roosevelt. Il problema è trovare un'arte, questa è l'espressione di Edward Hopper, un'arte che avesse il sapore del suolo natio. Per cui Roosevelt parla del tappetino navaio, lui dice: ma il mio tappetino navaio è più interessante del nudo che scende le scale di Duchamp. Io non so se mentisse sapendo di mentire, certo è che i navaio rappresentavano in qualche modo una tradizione americana. Curiosamente poi i navaio erano chiusi nelle riserve, cioè non è che poi erano visti proprio come i nuovi americani, però questo rende l'idea. E quest'idea della cultura navaio poi la ritroviamo per esempio in Pollock. Ma guardi che Pollock in tutte le sue dichiarazioni ha sempre detto che c'è chi vede in me riferimenti nell'arte degli indiani d'America, ma questo è assolutamente casuale, saranno delle memorie. Quando poi la politica della CIA nella promozione dell'arte americana negli anni della Guerra Fredda diventa più intensa, Pollock dirà: sì, in effetti qualcosa degli indiani d'America c'è, ma in realtà smentisce se stesso con quelle dichiarazioni. Però negli Stati Uniti ci fu un rapporto particolare con il mondo dei privati, perché lei nota per esempio che furono i privati a fondare e finanziare i musei americani, che sarebbero diventati nel tempo i nuclei propulsori della politica culturale legata alle arti visive degli La Stati Uniti. La stessa cosa che sta succedendo oggi in Cina, infatti. In Cina non ci sono in questo momento dei musei statali per l'arte contemporanea, ma ci sono dei privati che stanno aiutando gli artisti e che hanno dato vita ad una serie di musei d'arte contemporanea. E poi ci sono tantissimi cinesi, i cosiddetti cinesi d'oltremare, ci sono molti ricchi tra i cinesi d'oltremare, che stanno collezionando opere sia di cinesi ma anche di occidentali, aspettando che la situazione in Cina cambi per poi donare questi lavori ai musei statali quando questi nasceranno. Quindi diciamo che quello che sta succedendo in Cina è esattamente quello che è successo in America. E lei nota alla fine del suo libro che questo rappresenta un cambiamento importante, nel senso che prevale come potere più importante il mercato rispetto alla politica, in qualche misura. Perché il mercato è la finanza, direi, perché sono due cose diverse, sa? Perché cioè, una cosa è che, voglio dire, una classe imprenditoriale che produce automobili e che vende automobili, no? Per cui se lei, per dire, è un industriale che produce automobili, comunque sia sarà una persona che deve avere rapporto con i suoi operai, no? Infatti non è un caso che per esempio negli anni 50 gli imprenditori collezionavano artisti che poi facevano anche quadri dichiaratamente di sinistra, cioè c'era un dialogo. Oggi non c'è più quella cosa lì, oggi c'è la finanza, il vero potere è la finanza internazionale. Io parlo di ideologia della nuova finanza post-ideologica, cioè finito lo scontro tra i due grandi blocchi ideologici, viene fuori questa nuova forza che è sovranazionale, quindi che va al di là praticamente degli stati, che ideologicamente, voglio dire, crede solo nel denaro e nella gestione del denaro. Cioè oggi gli artisti non hanno un'ideologia a cui rifarsi, ma hanno delle regole di mercato a cui rifarsi, ma queste regole di mercato hanno una struttura ideologica vera e propria e sono le regole della nuova finanza. Quindi sostanzialmente la loro libertà è ancora condizionata. Ma guardi, non è che l'artista è uno che vive sulla luna, no? Per cui si può permettere di ignorare quello che gli accade attorno. È condizionata e come. Poi è chiaro che poi l'artista trova sempre in qualche modo la strategia per aderire a un sistema oppure per affrancarsi da un sistema. C'è chi come Damien Hirst quel sistema lo appoggia radicalmente e lo promuove, e c'è chi come Cattelan invece trova il modo di contrastarlo sul piano ideologico. E allora, secondo lei, come dovrebbe modificarsi il rapporto tra la cultura e la politica? Oggi ci si lamenta tanto che ci sono pochi soldi per la cultura, eccetera, ma in fondo, appunto, è lo Stato che deve finanziare la cultura, secondo lei, o di più deve farlo il mercato, ancorché sottoposto alle pressioni di cui ci ha parlato? Ma guardi, io direi che l'uno e l'altro. E l'uno e l'altro, però, attenzione, c'è uno Stato che finanzia la cultura affidando a delle persone che possono muoversi in piena autonomia dei progetti è una cosa, uno Stato che finanzia la cultura affidando dei progetti a delle persone che sono contestualmente dei politici è tutt'altra cosa. La politica non deve dare indicazione alla cultura su quello che la cultura deve fare, la politica deve essere garante del fatto che c'è un sistema di idee, anche di idee contrapposte, che si possono esprimere tutte contestualmente. Noi in Italia abbiamo assistito ad un fenomeno che è abbastanza vergognoso, che è quello degli assessori che si mettono a curare le mostre. Ma come fa un controllore ad essere contestualmente un controllato? Cioè, se lei va a New York, non è che se a New York cambia il sindaco, cambia il direttore del MoMA. E ci sono tanti musei e sono tutti sono in concorrenza fra di loro, ognuno deve dare un risultato. Guardi, in Spagna è stato nominato un direttore del Reina Sofia, quando c'era il ministro César Molina, creando una commissione di direttori di musei europei. Si voleva che fosse uno spagnolo, e questo lo capisco ed è giusto, non capisco perché in Italia si continuano a chiamare direttori stranieri, e questa commissione ha analizzato tutti i dossier che ha ricevuto e ha nominato uno spagnolo, il quale, non essendo stato nominato dalla politica, non ha debiti di gratitudine con nessuno ed è una persona assolutamente libera. Quindi il rapporto fra la cultura e la politica può cambiare in meglio? Ma il suo libro cambiare in meglio. Guardi, leggevo qualche giorno fa un libro di Renzi, Stil Novo, Dolce Stil Novo, adesso non ricordo esattamente il titolo, e curiosamente lui in questo libro attacca gli assessori tuttologi che si occupano di tutto e che mettono praticamente voce su cose che non compete loro. Sugli assessori stendo un pietoso velo e ringrazio Demetrio Paparoni, autore de Il Bello, Il Buono e Il Cattivo. Buona serata. Grazie a lei, arrivederla. A molte follie dell'arte contemporanea ci introduce, con tono satirico e irridente, Massimiliano Parente, con il libro Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler, pubblicato da Mondadori, 402 pagine, 18 euro. Qui il protagonista è Max Fontana, l'artista contemporaneo divenuto autorevole e ricchissimo grazie a una rapidissima carriera, avviata quando, alle soglie del suicidio per i continui fallimenti fino allora collezionati, l'artista, o non ancora tale, compie un gesto provocatorio dirompente di pessimo gusto di fronte a un celeberrimo quadro. E di là, di provocazione in provocazione, con al centro una smodata passione per Hitler e per la svastica, inizia una carriera travolgente. Il libro naturalmente è un'occasione per discutere, e in certi casi per ridicolizzare, i meccanismi attraverso i quali si forma il consenso nel mercato dell'arte contemporanea, un consenso costruito anche con un sapiente uso dei social network, lo strumento che può illudere ciascuno di avere qualcosa da dire, come spiegano queste righe. Le vere tragedie della vita sono altre. Per esempio, essere chiunque, non essere niente di speciale. Essere una persona normale con la sua vita anonima dalla nascita alla morte. Casa ufficio, ufficio casa, casa tomba, senza lasciare tracce. E chi si è visto e non si vedrà più, come dice il tweet che sto twittando in questo preciso momento. Chissà se si capisce, e se non si capisce, chi se ne frega? Sono gli altri che devono sforzarsi di capire me. Allora penso, è per questo che la gente è ossessionata dalla privacy, anche se poi fa di tutto per mettersi in mostra nei social network, perché la privacy della gente non esiste. È solo una scusa per lasciare intendere di avere una vita privata interessante da proteggere, mentre dietro ogni privacy ci sono solo delle vite tristissime, delle famiglie tristissime, degli uomini e donne tristissimi. Basta andare a spulciare gli album di foto sui social network e restare agghiacciati da tutte queste vite che si illudono di essere speciali e sono fatte in serie. Tutte famiglie uguali, mamme con mariti e figli, le torte di compleanno, il matrimonio, l'inverno in montagna, a dicembre gli alberi di Natale, l'estate al mare o in vacanze in quelle isole di merda che piacevano tanto a mia madre. Se potessero, metterebbero su Facebook anche il proprio funerale. E ci manca poco. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Il confettino. Oggi un lungo confettino dedicato questa settimana alla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi che è giunta alla 51esima edizione e si svolge a Bologna da domani fino al 27 marzo. Ricordo che questa è una fiera per operatori. Nel 2013 ci sono stati 1200 espositori con 25.000 operatori e 75 paesi presenti, ma quest'anno c'è una novità per i lettori, non solo per gli operatori. Da ieri infatti al 27 è in corso la settimana del libro e della cultura per ragazzi che si svolge nell'area della fiera al padiglione 33. Il titolo di questa prima edizione della settimana è Non ditelo ai grandi e in questa occasione vengono ospitati laboratori, convegni, incontri e poi ci sono tanti eventi in città. Questa è una tradizione, nelle biblioteche di quartiere, al Museo Mambo, al Museo della Musica, al Museo Civico Archeologico, alla Sala della Borsa, con una mostra sui giocattoli e gli arredamenti per bambini dal primo Novecento dalla collezione Marzadori. E poi c'è anche la mostra degli illustratori e la seconda edizione di Expo Pixel, che è il salone del digitale applicato alle arti visive. In questa occasione della fiera viene dato un premio al 4 categorie per il migliore libro per ragazzi, che quest'anno andrà per la fiction a Un libro sul Natale, un libro americano di India Desjardins, per la non fiction a un libro polacco che presenta un alfabeto di poesie yiddish, per New Horizon un libro colombiano viene premiato che presenta la versione cartacea di un film animato e infine per l'opera prima viene premiato il libro di un'autrice norvegese. Quali sono le principali novità editoriali di questa edizione della fiera? Innanzitutto festeggiano a Bologna i 40 anni le edizioni EL, che nel frattempo hanno acquisito due marchi importanti, Einaudi Ragazzi ed M Edizioni. Einaudi Ragazzi presenta L'eroe invisibile di Luca Cognolato e Silvia Del Francia, 156 pagine, 11 euro. Questo è un romanzo che presenta la straordinaria avventura di Giorgio Perlasca, che salvò nel 1944 tanti ebrei a Budapest. Poi, sempre Einaudi Ragazzi, presenta Il volo dell'asse di picche di Christian Hill, 192 pagine, 11 euro, l'avventura eccezionale di quattro ragazzi che nel 1917 da una base aerea friulana compirono con un caprone una straordinaria avventura che naturalmente li segnò per tutta la vita, introducendoli anche ai grandi dilemmi etici. M Edizioni presenta per i lettori più piccoli alle prime armi una nuova collana che si intitola Leggere e giocare, voce del verbo essere, per abituare i bambini divertendoli alla lettura. È una collezione seguita da Paola Pini e Aurora Biancardi. I volumi costano 7,50 euro e hanno 80 pagine. Logos Edizioni porta a Bologna la illustratrice e autrice argentina Isol e ne presenta quattro titoli: Vita da cani, 17 euro, Cose che capitano, Scambio culturale, Segreto di famiglia. Questi ultimi costano ciascuno 14 euro. Poi un altro editore, Baba Libri, ai bambini più piccini propone A Kiko e il palloncino di Komako Sakai, tradotto da Elisabetta Scantaburlo. 44 pagine, 12,50 euro. Questa è una poetica fiaba sulla magica esperienza di un bambino con il suo palloncino. Poi c'è, sempre per Baba Libri, Il piccolo contadino di Jean Leroy, illustrato da Mathieu Modet, tradotto da Federica Rocca, 20 pagine, 11 euro, per scoprire la vita degli animali della fattoria. E poi Al fuoco di Adrien Albert, tradotto da Tanguy Bablé, di 36 pagine, che è una storia sul mondo affascinante dei pompieri. Orecchio Acerbo ricorda Mario Lodi, che è scomparso proprio pochi giorni fa, con Moschettiere della Libertà, illustrato da Michele Rocchetti, 36 pagine, 16,50 euro. Questa è la storia del soldatino del Pim Pum Pa, capace di raddrizzare tutti i torti. E a proposito di scrittori per l'infanzia, ricordo di Pietro Macchione il libro Storia del giovane Rodari, in collaborazione con Chiara Zangarini e Ambrogio Vaghi, è pubblicato da Pietro Macchione Editori, 430 pagine, 20 euro, e illustra i primi 30 anni della vita della formazione del noto scrittore di libri per ragazzi. Un altro editore, Il Castoro, presenta di Bernard Friot Altre storie a testa in giù, illustrato da Silvia Bonanni, 112 pagine, 13,50 euro. anche Friot e un insegnante di scuola come Mario Lodi, questo francese, che ha dato vita alla fortunata serie A testa in giù, che sono dei racconti surreali per mostrare il mondo dalla parte dei bambini. Poi sempre Castoro presenta Belle Gustavo di Zita Dazzi, romanzo per lettori più grandicelli ambientato a Milano e che prende spunto da una storia vera, 160 pagine, 14 euro, e 50 infine per i più piccoli Un cucciolo per Nina di Christine Naumann-Villemain, illustrato da Marianne Barcillon, 32 pagine, 12,90 euro, tradotto da Rosa Vanina Pavone. Questa è la storia di Nina che non si perde d'animo per ottenere ciò che più desidera, un cucciolo che cresca con lei. Zoo Libri porta a Bologna un altro illustratore tra i più noti, Olivier Jeffers, di cui questo editore ha pubblicato Chi trova un pinguino, 32 pagine, 16 euro, Quest'alce mio, 40 pagine, 15 euro, Nei guai, 40 pagine, 15 euro. Infine voglio ricordare una nuova iniziativa dedicata ai ragazzi, cioè l'apertura che ha avuto luogo poche settimane fa a Milano, presso la rotonda di Via Besana, di un nuovo museo, il Museo del Bambino, che in questo periodo tra l'altro ospita la mostra Scatole e organizza stabilmente laboratori per le famiglie che hanno libero accesso al museo il sabato e la domenica e per le scuole. E il museo inizia anche un'attività editoriale. Muba Books pubblica infatti di Francis Drake Vertigo, che è un pirata anche della parola, Rompete le righe. L'autore usa il nome del pirata, ma il suo vero nome è Francesco Dondina, e scrive una sorta di quaderno sul quale si compie l'avventura di lettere indisciplinate che vogliono recuperare la loro libertà. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto di Massimo Carlotto Il mondo non mi deve nulla, è pubblicato dalle edizioni E.O., 110 pagine, 9,50 euro, in una Rimini ancora tranquilla prima dell'arrivo dei turisti, l'incontro singolare tra un ladro tentato da una finestra aperta con una vittima che non si sconvolge dall'incontro con il malvivente. Di Maurizio Garuti vi segnalo poi Bla bla bla, pestilenze linguistiche dalla A alla Z, è pubblicato da Pendragon, 190 pagine, 14 euro. Questo è un dizionario dei vizi linguistici più diffusi, da Alla fine della fiera, Alta velocità, Amici, A ogni 3x2, Bipartisan, Blogger, Bollino rosso, Delocalizzare, Devastante, Navigatore satellitare, Popolo del web, Spesa intelligente, eccetera, eccetera, eccetera, che ci invita a essere meno pigri e meno conformisti nell'uso della lingua e più attenti alle frasi fatte. Per evitare flop, per seguire l'eccellenza della lingua, mettendoci la faccia con onestà intellettuale, bacchettando il popolo del web. E come vedete, ho costruito un periodo utilizzando tante frasi fatte. E infine di Enzo Fortunato vi segnalo Vado da Francesco, Uomini e donne, poveri e potenti, pellegrini al Sacro Convento di Assisi, pubblicato da Mondadori, 172 pagine, 16,50 euro. L'autore è un francescano, direttore della sala stampa del convento di Assisi, oltre che teologo, che ci racconta il richiamo esercitato da San Francesco sui tantissimi umili e potenti che si mettono in viaggio per incontrare il santo ad Assisi. Prima di salutarci voglio segnalarvi una nuova iniziativa editoriale in campo scientifico, cioè il rilancio di Sapere, idee e progressi della scienza. Questo è un mensile divulgativo che cambia veste dopo 80 anni per diffondere meglio la cultura scientifica. Il direttore Nicola Armaroli, l'editore Dedalo, a tutti e due facciamo un caloroso in bocca al lupo. Ogni numero costa 7,50 euro e ha 64 pagine. Vi segnalo a questo proposito che è in corso a Milano fino al 13 aprile al Museo di Storia Naturale la mostra Brain, il cervello, istruzioni per l'uso, che è una mostra organizzata da 24 ore Cultura, la società che appartiene al gruppo al quale appartiene anche questa radio. La mostra parte dall'American Museum of Natural History di New York, è curata da Rob DeSalle, Joy Hirsch e Margaret Zellner, e ci conduce a scoprire il cervello e quali siano tutte le sue potenzialità. E vi segnalo allora, nella collana 50 grandi idee di Dedalo, il libro dedicato appunto al cervello di Moheb Costandi, che è un neuroscienziato americano, tradotto da Chiara Barattieri di San Pietro, 208 pagine, 18 euro, che ci aiuta a cogliere i meccanismi del funzionamento del cervello. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@24.it.